24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, sono le 7 e 19 minuti, state facendo un sontuoso ponte oppure state lavorando? Siete in macchina, state andando ai posti di lavoro? Carmelo Lauricella in regia qui è con noi, Diego Rovelli c'è, redazione con noi, noi siamo qua. 349-238-6666, se volete il numero per i vostri messaggi, fateci sapere dove siete, fateci sentire se siete vicini a noi, fisicamente non solo. Allora, noi oggi avremo ospite l'onorevole Maurizio Paniz, del Popolo della Libertà, questa alle 8.20, poi parleremo di province, anche la Banca Centrale Europea ci ha detto: volete iniziare a tagliare? Perché non iniziate a tagliare dalle province, accorpatele? E qui si è sentita una sonora risata di 60 milioni di italiani in coro, no? Roba da mandare questa come barzelletta alla settimana enigmistica. Vabbè, comunque parleremo di province, di taglio delle province. Pensate che domenica prossima in Sardegna si vota in un referendum per chiedere se si vogliono eliminare almeno le 4 province nuove nate qualche anno fa. C'è chi dice: ma come, no? Intoccabili, non si può, non si possono tagliare. Partiremo da qui per parlare dunque di taglio alle province. Questa è le 8.30. Ora, come di consueto, andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali in edicola. Allora, intanto uno sguardo ai titoli in questo lunedì 30 aprile, tanto ve lo dico tra l'altro anche domani, primo maggio, siamo in diretta, ebbene sì. Allora, i titoli: Il Sole 24 Ore, cantiere infinito contro l'evasione, questo è il titolo di apertura dell'edizione del lunedì. E poi è tutto tasse, tagli, questo è il tema che trovate sui giornali. Il Corriere della Sera, l'apertura: i sindaci ribelli dell'IMU. La Stampa: è già rivolta contro i tagli. Il Messaggero: ecco i tagli alla spesa. Il Secolo XIX: ecco i tagli, governo assediato. Per l'Unità c'è la foto del ministro Giarda e di Mario Monti: attenti ai tagli. Repubblica invece: Roma-Berlino, ecco il piano segreto, questo è il titolo d'apertura. Il Giornale invece apre sulla vicenda, anzi quella che è definita la strage degli imprenditori, un'altra vittima, un'altra persona, un piccolo costruttore che si è ucciso perché è obbligato a licenziare, questo in provincia di Nuoro, e il titolo del Giornale è salvateli. Anche per il Quotidiano Nazionale, edizione del Nord, Il Giorno: fratelli di tagli, e c'è la foto di Mario Draghi e Mario Monti. Da cosa voglio partire però? Voglio partire da una bella pagina di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, un'intera pagina, 19. È un viaggio a Roma, ma un viaggio in una Roma un po' particolare, degradante, degradata, decadente. La capitale fuori legge sotto gli occhi dei vigili. Questo è il titolo del reportage di Fabrizio Roncone. A spasso per Roma, dopo la bufera che ha investito il corpo della polizia municipale, Piazza Navona sembra ormai un souk arabo. Degrado, tavolini abusivi, Pantheon oscurato, e la gente risponde, la gente, cioè L'apostrofo agente di polizia municipale, multe, faccia il bravo. E allora inizia così l'articolo di Roncone: dolcissima sera l'incanto di Piazza Farnese nel riverbero dei lampioni, quando all'improvviso entra una BMW coupé che rombando va a inchiodare davanti al ristorante Camponeschi. Il tipo che apre lo sportello è basso, tarchiato, il viso ovale, un sigaro tra le dita, la camicia bianca sbottonata al collo. Scende, va a prendere posto in una tavolata rumorosa, viene accolto così: Luigino, Luigino! Segue applauso, risate. Chi può permettersi un simile ingresso in una delle più belle piazze di Roma? Sul cruscotto della BMW non c'è traccia di permessi speciali. All'angolo il cartello recita: area pedonale. Due vigili urbani assistono distrattamente alla scena. Uno fuma, l'altro sbadiglia. Ed ecco, mi avvicino. Cerca qualcosa? Con un tono subito sgarbato. Mi chiedevo perché quel signore può parcheggiare la sua auto lì. Mi chiedevo perché non gli facciate una multa. Perché? Senta, ma lei non c'ha niente da fa? Ma veramente, è su, se faccia una passeggiata, dai, faccia il bravo, no? Nemmeno ti chiedono chi sei, si allontanano con ghigno di fastidio, la camminata ciondolante, non si capisce se complici o rassegnati, di certo testimoni e protagonisti dell'agonia di questa città, la capitale d'Italia ormai sfregiata dall'illegalità, dall'abusivismo, senza più decoro, regole, precaria, molle, infestata dalle tangenti, dove tutti possono tutto, dove un famoso commerciante di vini come Silvio Bernabei accusa il comandante dei vigili urbani Angelo Giuliani di aver intascato 20.000 euro in contanti. E il comandante Giuliani, scrive Roncone, 52 anni, ha fama ad essere loquace, ma non è vero, prima è affabile, mai sentito in precedenza, passa subito al tu e dai Fabri, vieni a prenderti un caffè al comando, che t'aspetto. Poi in 10 minuti sparisce, si nega, lascia farfugliare scuse la segretaria. Il suo predecessore, Giovanni Catanzaro, fu costretto alle dimissioni 4 anni fa, accusato di aver parcheggiato un Alfa Romeo Brera rossa a Via della Croce in sosta vietata, esponendo un contrassegno per disabili falso. E poi continua il reportage a Piazza Navona, contati 14 locali tra bar e ristoranti, 603 tavoline, ma oltre 400 sono fuori legge, dovrebbero stare sul marciapiede, invece invadono la strada, sconvolgono il panorama. Un souk, una piazza che potresti trovare a Kabul, e invece sei a Piazza Navona, i vigili sono lì agli angoli che osservano, come se la scena non li obbligasse a intervenire. E poi Campo dei Fiori, dove dopo la mezzanotte diventa zona di guerriglia. Un anno fa 3 giovani romani massacrarono di botte un turista inglese, Zuppo di Birra, che aveva improvvisato uno spogliarello. Bande di coatti minacciano e insultano chiunque osi incrociare i loro sguardi eccitati dai cocaina e vodka. E vabbè, insomma, se ti va bene arrivi su Ponte Sisto, devi pregare che i pitbull di quegli straccioni chiamati pancabestia abbiano cenato, se no li vedi annusare minacciosi i tuoi polpacci e non c'è vigile che possa intervenire. E continua così, è un reportage davvero molto duro sul degrado, racconta Fabrizio Roncone, che si può respirare nelle vie di Roma con i vigili urbani che assistono il più delle volte impotenti o non vogliosi di intervenire, mettiamola così. Voglio, prima della pubblicità, regalarvi anche questa chicca, e anche questo è il segno di un momento in cui l'antipolitica, o chiamatela come volete, o comunque in cui i politici non godono di una bellissima fama, di un bel momento di fama. Sul Quotidiano Nazionale c'è la storia di Lorenzo Vedovi, è uno chef che ha una country house a Fermignano in provincia di Pesaro Urbino, e ha messo fuori, affisso, un manifesto davanti all'ingresso della sua country house che recita più o meno così: i politici, ad ogni livello, di qualsiasi incarico, non dovrebbero entrare. E che è una minaccia? È un consiglio, dice il titolare di questa country house. È un consiglio. E viene intervistato: cari politici, non entrate. Ma senta, qual è la goccia che ha fatto traboccare il vaso per cui le ha fatto mettere questa cosa? Ma nessuno, cose che si sono accumulate nel tempo. Certo, dice, non nego l'entrata a nessuno, il mio è un consiglio. Cari politici, non entrate. C'è anche gente meritevole, per carità, ma non sono capaci di mettere all'angolo quelli che invece da anni la politica la stanno rovinando. E poi parla delle problematiche di qualsiasi imprenditore, la burocrazia che ti soffoca, lo Stato ed Equitalia che pretendono che ognuno rispetti le scadenze di ingiunzione imposte varie, mentre lo Stato i debiti coi privati continua a non pagarli. Però c'è un onorevole che l'ha paragonata a Hitler, che l'accusa di fare come faceva Hitler con gli ebrei. Ma guardi, è un'equazione tutta sua di questo onorevole, l'onorevole Rodolfo Paolini. Pensi ai problemi suoi che ne ha, la mia è una provocazione sana. Insomma, ero stanco di non avere nessuno che mi ascoltasse. Basta parole, basta chiacchiere in TV che non portano da nessuna parte. Con quelle non ci paghiamo le fatture. E insomma, lui ha fatto questa cosa, questo ristoratore. Non è un divieto, ma un consiglio. Affissa alla porta del ristorante: cari politici, vi consiglio, non entrate qui. Siamo qui allora alle 7:34 minuti. Oggi è un giorno, dovrebbe essere il giorno importante, quello dei tagli. C'è il Consiglio dei Ministri, sapete, la spending review, quella che io, chi mi segue su Twitter, ma anche qui ai microfoni di Radio 24, ho definito una supercazzola da giorni, perché insomma sembra sembrano delle promesse, tutti gli italiani avrebbero dei suggerimenti su dove e come tagliare, ma che ne so, basta seguire anche il lavoro giornalistico di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo da anni, la casta, eccetera, eppure siamo sempre lì a capire dove si potrà mai tagliare. Allora, oggi c'è appunto il Consiglio dei Ministri, che però sarà una riunione preliminare, poi deciderà il Premier Mario Monti. In questo Consiglio dei Ministri comunque il ministro Giarda, colui che è stato incaricato da anni, di capire dove tagliare la spesa pubblica, presenterà un suo dossier. Ecco qui allora, il governo studia i tagli, si parte quest'anno, vediamo un'elaborazione dei vari articoli, i più interessanti sul tema tagli e che tagli ci saranno, se ci saranno. Spending review in Consiglio dei Ministri e la Banca Centrale Europea dice accorpare le province, di questo ce ne occuperemo e sembra davvero un po' la barzelletta italiana da tempo immemore. Un pacchetto di risparmi immediati e un metodo per il futuro, così racconta Mario Sensini, è il senso della spending review che arriverà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Servirà anche a operare un taglio della spesa pubblica già sul bilancio del 2012. La prospettiva è dare una sforbiciata al bilancio di 3 o 4 miliardi già da quest'anno, una prospettiva che viene ritenuta realistica dai tecnici che seguono il dossier. Questo servirebbe per rinviare l'aumento dell'IVA previsto ad ottobre fino all'inizio del prossimo anno e magari ridurre l'incremento delle aliquote che altrimenti sarebbero già da quest'anno salirebbero dal 10 al 12% quella agevolata e dal 21 al 23% quella ordinaria. Dunque potremmo recuperare 3 o 4 miliardi. Dove si recuperano? E qua partono le ricette più disparate. Allora, dalla spending review, intanto Repubblica dice ci sarà 1 miliardo per le imprese. Roberto Petrini, quindi questa è un'altra ricetta, per il Corriere 3 o 4 miliardi in generale. Per Repubblica evidentemente 1 miliardo verrà utilizzato per rilanciare le imprese. Il ministro Giarda, racconta Roberto Petrini su Repubblica pagina 4, ha lavorato fino all'ultima a quella che ha battezzato elementi per una revisione della spesa pubblica. O almeno c'è una perifrasi italiana per l'odiosa spending review, che significa revisione sistematica della spesa. Oggi Giarda illustrerà il rapporto in Consiglio dei Ministri, non un semplice intervento per quest'anno, ma un'azione profonda per impedire allo Stato di spendere male in modo poco efficiente. 5 i ministeri passati al setaccio da Giarda: interni, giustizia, difesa, istruzione ed esteri. Si tratta infatti della spesa pubblica centrale, restano fuori la sanità, il pubblico impiego e gli enti locali. Questi dovrebbero essere dunque fuori. Per il secolo XIX, sforbiciata su tribunali, prefetture e scuole. Questa potrebbe essere la ricetta. Bruno Lugaro ne parla a pagina 3, ma siamo veramente alle ipotesi. E poi non sono ancora partiti i tagli, ci sono le ipotesi, ma quello che non manca in Italia sono le proteste. Le proteste a prescindere di quelle davvero abbondiamo. Guardate La Stampa, pagina 2, giudici, prefetti e questori, no a tagli indiscriminati. Racconta Francesco Grignetti, a leggere il piano dei tagli del Ministero dell'Interno, a scoprire che di essi, questori e prefetti, uno su quattro non avrà più una poltrona, visto che una trentina di prefetture e questure su 106 saranno declassate a sportello per i cittadini, cosa succede? È già rivolta. Così come sono sul piede di guerra in magistratura e nei sindacati che tutelano i dipendenti del Ministero della Giustizia. Dice per esempio Cosimo Maria Ferri, segretario di Magistratura Indipendente, una delle correnti dei magistrati: in questo momento il servizio giustizia necessita di investimenti, altro che tagli. Per non dire del sordo malumore che si alza dal mondo militare, dove sarebbero 30.000 gli esuberi tra ufficiali e sottufficiali. Siamo insomma alla vigilia del Consiglio dei Ministri che si annuncia cruciale per la macchina dello Stato. Il governo è alla disperata ricerca di risparmi e però dirigenti e funzionari del Ministero degli Interni, della Difesa e della Giustizia non accettano il ruolo di capri espiatori delle diverse spending review. che al plurale sarebbe reviews, peraltro. Però la questione è questa: già partono le proteste. E non abbiamo ancora iniziato, non sappiamo ancora che cosa ci sia nel dossier di Giarda, tanto che per esempio davvero io abbiamo deciso di occuparcene venerdì e la Banca Centrale Europea, posso dire adesso ce la tiriamo un po', ci ha copiato, no non è che ci ha copiato, ma la Banca Centrale Europea ha detto accorpate le province, tagliate le province, ma quanti anni è che sentiamo questa cosa, cari ascoltatori? Quanti anni è? La BCE, accorpate le province, così a pagina 3 della Stampa il titolo, oppure a pagina 4 del giornale, la BCE dà lezioni al professor Monti, troppe province vanno ridotte. Si discute di questo da anni, noi ne parleremo alle 8.30 visto che c'è un referendum in Sardegna domenica per cancellare almeno le 4 nuove province nate qualche anno fa, ma c'è chi si oppone. E poi uno va sul Messaggero a pagina 2 e scopre che c'è un piano per le province, secondo il Messaggero allo studio del governo. Il governo punta a 50 macro aree, cioè adesso ci sono 107 province. In Parlamento l'intesa è vicina, vicinissima, vicina, sempre così, siamo sempre a un passo dai tagli come quello delle province. Il governo punta a rivoluzionare le attuali province, non solo trasformandole in consorzi tra comuni, ma riducendole dalle attuali 107 più 3 a statuto speciale a una cinquantina di macro aree con popolazione superiore ai 400.000 abitanti e estensione minima di 3.500 km quadrati. E qui già ci saranno i calcoli delle province che per questo verranno cancellati e che saranno già in rivolta. Manco si sa se questo obiettivo è davvero vero, ma intanto già l'importante è protestare in Italia. Per evitare i tagli, ovviamente. Vi segnalo sul tema tagli l'editoriale e l'articolo in prima pagina della Stampa di Luca Ricolfi, l'utopia della lotta agli sprechi, scrive Ricolfi, oggi il Consiglio dei Ministri si riunisce dunque per affrontare il problema dei tagli alla spesa pubblica. Il quadro generale è chiaro, la spesa pubblica totale al netto di pensioni e interessi sul debito ammonta circa 500 miliardi di euro, il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25%. Il che significa che se si adottassero le pratiche delle amministrazioni più efficienti, ma sarebbe più esatto dire meno inefficienti, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno. Ma quali sono le tre ragioni per Luca Ricolfi per le quali non si fa mai nulla? Prima, ovvia, politicamente è più facile aumentare le tasse che ridurre la spesa. La seconda ragione che blocca i tagli è che colpevolmente in questi anni il ceto politico non ha mai commissionato studi analitici. Di un comparto come la sanità o la giustizia o la burocrazia comunale si sa con precisione quanto spreca a vari livelli, nazionale, regionale, provinciale, ma non si sa dove esattamente gli sprechi si annidino, perché mancano studi analitici per l'appunto. Ma la terza vera causa per cui non si taglia è la vera e profonda, a mio parere, insuperabile ragione per cui non si riesce e non si riuscirà mai a eliminare gli sprechi, perché le amministrazioni virtuose sono territorialmente concentrate in alcune ben note regioni del centro-nord, quelle viziose in alcune ben note regioni del centro-sud. Una politica di risparmi di spesa seria dovrebbe avere il coraggio di dire: caro Lombardo-Veneto, cara Emilia-Romagna, avete già fatto molto per razionalizzare la spesa, quindi a voi chiediamo solo un'ulteriore limatura del 5%, una cifra indicativa ma non lontana dalla realtà. Caro Piemonte, cara Liguria, cara Umbria, voi siete state meno brave, vi chiediamo di tagliare il 15%. E poi dovrebbe farsi forza e dire: care Sicilia, Calabria e Campania, voi buttate via i soldi, vi diamo 5 anni di tempo, ma voi la spesa la dovete ridurre del 40%, mentre voi Puglia, Abruzzo, Sardegna di soldi ne buttate via un po' meno, quindi a voi chiediamo risparmi minori, diciamo del 25% in 5 anni. Ma dice lo stesso Ricolfi, è un'utopia? Sì, penso proprio di sì. In tutto questo rispunta Giulio Tremonti, fa un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Antonella Baccaro, dice: il rigore, c'è un buco da 20 miliardi. Tremonti, l'impressione che si addensino sull'Europa nubi di tempesta, la scelta di lasciarla al suo destino, evidente dalla dinamica dei mercati, c'è una progressiva drammatizzazione dello scenario e a fronte si muove una classe politica europea che dà l'impressione di non avere mai letto un libro di storia. Do un giudizio severo perché i popoli stanno capendo che il loro destino non può dipendere da governanti in leasing, da banchieri centrali che fanno politica. Tanto che Antonella Baccaro dice: mi scusi, mi sembra di sentir parlare Beppe Grillo. Sono cose che ho scritto nel mio libro, nei miei documenti tecnici, che ho letto nel programma del francese Hollande, risponde Tremonti. L'ho sempre detto che bisognava separare l'attività produttiva dalle banche, da quella speculativa, vietare i derivati, fare gli eurobond. Scusi, lei era ministro dell'economia di un governo di larga maggioranza mesi fa. Poteva andare oltre alla semplice analisi e sentite la risposta di Tremonti: perché Obama ha potuto fare qualcosa? Un singolo ministro può dire queste cose, ma quando sei al G20 alla fine sei 1 contro 19. Questa è l'analisi di Giulio Tremonti, che poi dice: c'è un buco di 20 miliardi di euro, ci ritroviamo con un fabbisogno da 20 miliardi di euro. E questo è il rigore, scelte solamente di tasse e tariffe, manovra squilibrata. Da idee, dai tecnici anche idee erronee sull'IMU per la seconda casa. Allora, c'è la carica dei 600 comuni ribelli, così titola il Corriere della Sera, soprattutto sono i leghisti, circa 500 leghisti, sindaci che domani si riuniranno anche in provincia di Bergamo per il Lega Unità Day. L'obiettivo è quello di non riscuotere l'IMU, fare una vera e propria obiezione fiscale o rivolta fiscale. C'è il Corriere della Sera che intervista il sindaco di Milano, Pisapia, che per carità dice: nessuna alleanza con la Lega, però certo esprimo anch'io il mio disagio. Il mio non è pessimismo né allarmismo, dice Pisapia, ma il prendere atto di una realtà che come sindaco avverto ogni giorno confrontandomi coi cittadini, cioè c'è una grande preoccupazione, in molti non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Siamo a un bivio, in tempi brevi devono arrivare segnali di maggiore equità. Sono state fatte scelte che in molti casi, invece di colpire chi ha già, finiscono per toccare sempre gli stessi, per esempio i lavoratori e gli enti locali. L'IMU è un'imposta municipale, ricavato, tutto il ricavato serve ai comuni per finanziare e pagare servizi che creano oltretutto occupazione. Però dice: un'imposta sbagliata. Il primo cittadino di Milano dice no alla rivolta fiscale. Dico no, dice Pisapia, anche perché diventa un aiuto all'evasione e non un contributo per modificare una norma ritenuta ingiusta come l'IMU. Questo nell'intervista a Maurizio Giannattasio del Corriere della Sera, che trovate a pagina 8. Sta di fatto che c'è anche questo tema, l'obiezione fiscale, un tema che nei prossimi giorni sicuramente sarà ancora trattato. Tra l'altro, a proposito di fisco, vi segnalo che cosa mette in prima pagina oggi il Sole 24 Ore. Il titolo è: cantiere infinito contro l'evasione. Certo, la lotta all'evasione, tra l'altro, è preannunciata in questo primo maggio, in questo ponte del primo maggio, nuovi blitz fiscali per andare alla caccia di chi non emette gli scontrini da parte dell'Agenzia delle Entrate, già annunciato. Il Sole 24 Ore racconta che la lotta all'evasione è un cantiere infinito, nonostante i risultati conseguiti nella prima parte dell'anno dalla Guardia di Finanza. Mancano infatti all'appello molti strumenti in grado di contribuire al salto di qualità nel contrasto al sommerso. Quali sono questi strumenti? Beh, intanto il Sole 24 Ore ne parla a pagina 3 con Marco Mobili e Giovanni Parente. I lavori in corso sull'anti-evasione. Certo, manca ancora tutto quello che riguarda la comunicazione dei saldi sui conti correnti e gli altri rapporti finanziari. Tra le incompiute però c'è anche un'attesa molto spasmodica su questo, sul nuovo redditometro, arrivo inizialmente previsto per i primi mesi dell'anno e ora indicato per giugno. E dunque anche questo è un tema, anche il tema dell'andamento a rilento sul fronte internazionale. Per esempio, basta vedere il monitoraggio dell'OCSE, l'Italia ha siglato appena 98 accordi con altri paesi, di cui 96 sono trattati contro le doppie imposizioni, soltanto 2 sono TIEA, cioè le intese per lo scambio di informazioni tra le autorità tributarie. Tanto per non andare molto lontano, la Francia già all'attivo 143 documenti, la Germania 120, di cui 22 trattati di collaborazione. Dunque un'altra incompiuta è che l'Italia dovrebbe fare più accordi internazionali con i paesi per cercare di far emergere il sommerso. Sta di fatto che tutti i lavori in corso sull'antievasione li trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. E per il resto la politica, vabbè, siamo tutti in attesa di questi tagli, insomma, di capire dove il ministro Giarda vorrà tagliare. La situazione politica è anche fotografata in maniera interessante da questo articolo che trovate sul Sole 24 Ore a pagina 9, vale a dire: al seggio è boom di liste civiche, si vota tra una settimana e c'è questa novità. Nei 27 comuni capoluogo le sigle locali sono aumentate del 61% rispetto a 5 anni fa. Liste civiche vuol dire, insomma, non i tradizionali partiti che riscuotono sempre meno successi. Cresce anche il numero degli aspiranti alla poltrona di sindaco, oggi sono il 40% in più. Ma la carica, questa carica delle liste civiche nei comuni capoluogo chiamate al voto domenica e lunedì, è un segnale evidente anche della difficoltà dei partiti tradizionali. Trovate il dettaglio a pagina 9 del Sole 24 Ore. Devo fare qualche segnalazione prima di chiudere. Intanto vi segnalo che alcuni giornali, giustamente, come il Corriere della Sera per esempio, apre a pagina 2-3, mette la notizia delle stragi, nuove stragi che sono state compiute in Nigeria soprattutto, ma anche in Kenya, contro i cristiani nel mirino, uccisi durante la preghiera Domenica di Sangue in Africa. C'è tra l'altro un'intervista al ministro Andrea Riccardi, ministro per la cooperazione internazionale, fondatore della comunità di Sant'Egidio, intervistato da Gian Guido Vecchi per il Corriere della Sera, dice: i cristiani sono perseguitati perché simbolo di pluralismo, ma certo c'è soprattutto in alcuni paesi, l'ultimo è il Mali, un'attenzione particolare per lo sviluppo di estremismi legati all'Islam. E vi segnalo anche come cronaca, cosa un po' curiosa, l'intervista a un personaggio sulla Stampa, intervistata a pagina 21, è il venditore dell'anno. In un anno ha venduto 1209 aspirapolvere. È stato premiato come agente di commercio dell'anno dalla Vorwerk, che è quella che vende il folletto, no? Giusto per non fare pubblicità, ma insomma, devo dirlo, se no non si capisce di che stiamo parlando. Quelli che vendono porta a porta ti citofano. In un anno 1209 aspirapolvere. Si chiama Luigi Aquilano, 43 anni, originario di Torre del Greco, vive però a Mantova da 23 anni, fa una media di quasi 4 folletti al giorno, quasi 4 aspirapolvere al giorno, complimenti. Cioè, spiega tutti i suoi trucchi, come fare entrare nelle case degli italiani, come riuscire a vendere in 5 minuti. La prima cosa che faccio: do del tu a tutti, sono il re del porta a porta, do a tutti del tu. Il lei non lo uso quasi mai, giusto con qualche cliente che me lo chiede proprio espressamente, qualche avvocato, ecco, diciamo così, qualche avvocato. In un anno 1209 aspirapolvere, ecco come ho fatto il record. Ho 7 secondi per citare l'apertura della Gazzetta dello Sport. Campionato ormai chiuso da mesi, si sa, Juve a un passo, lo sapete, dallo scudetto, ormai è chiaro, ma la Pro Sesto è stata promossa e questa è la seconda promozione in 2 anni consecutivi. Dunque il calcio che conta, la Pro Sesto è in campionato nazionale dilettanti. Evviva 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8 e 19 minuti proprio in questo istante. Allora, vogliamo intanto fare qualche chiacchiera sull'attualità politica con l'onorevole Maurizio Paniz, che saluto, ben ritrovato onorevole, buongiorno. Buona giornata a tutti. Del Popolo della Libertà. Prima dell'attualità politica, onorevole, guardi, la questione tasse, rivolta fiscale, i tagli, questi sono i temi, però c'è un altro tema che è quello delle intercettazioni, che forse è un po' in sordina adesso, ma continuano, Repubblica continua a mettere gli audio di Berlusconi e quelle definite le papi girls. Lei le ascolta queste intercettazioni? Ora non più. Ora non, in che senso? Perché prima sì. Nel senso che ormai hanno perso di attualità totalmente, ormai sono trite e ritrite, credo che anche coloro che leggono i giornali o guardano le notizie sui vari organi di informazione si siano stancati di questa sistematicità nel lanciare questo tipo di messaggi. Ci sono gli audio forse che rendono la cosa più interessante, cioè adesso si possono ascoltare proprio le voci, anche la voce di Silvio Berlusconi. A questo proposito, l'audio rende un pochino meglio un'intercettazione che, quando viene trascritta, non dà mai l'idea esatta di quello che è il contenuto che gli interlocutori vogliono dare. L'audio la rende un pochino più efficace, però francamente il tema è trito e ritrito ormai. Trito e ritrito. Senta, però le chiedo questo, perché lei è stato anche protagonista della famosa vicenda di Ruby, la nipote di Mubarak, non stiamo neanche a... In questo momento le intercettazioni hanno confermato esattamente quello che dicevo. Non solo le intercettazioni, ma anche le dichiarazioni dell'ex presidente Berlusconi. Cioè che secondo Berlusconi Ruby era la nipote di Mubarak. Lui aveva il convincimento che potesse essere. Questa è stata la verità acclarata, lo ha ribadito lo stesso presidente quando si è presentato al Tribunale di Milano. Vede che il tempo, come sempre, costituisce la miglior medicina e dà conferma che non si dicono sciocchezze. Ma lei dice, nel senso, c'è anche le telefonate in cui Ruby dice è pazzo di me, mi dice dammi, posso chiedere 4 milioni e mezzo, quello che voglio. Cioè, non mi sembrava, almeno io un po' le ascoltate, non tanto, però qualcosa ho ascoltato, non mi sembra il rapporto tra una presunta nipote di Mubarak, questo nelle convinzioni di Berlusconi, e Berlusconi stesso. Ma sa che non sembri a lei, può essere, però che in realtà questo fosse il possibile convincimento dell'onorevole Berlusconi mi pare sia abbastanza chiaro. Quindi ci sono molte cose nei processi che non sembrano ma che poi appaiono, oppure molte cose che appaiono e che non sembrano. L'altro giorno la Corte d'Appello di Roma ha assolto Busco, che era accusato della morte di Cesaroni. C'era stato un convincimento molto esteso che lui potesse essere il responsabile, eppure la Corte ha detto di no. Punto. Come vede, lei rimane fermo su questo punto. Rimane fermo su questo punto. Berlusconi, secondo lei e secondo quello che emerge da queste intercettazioni, era convinto di parlare con la nipote di Mubarak. Non è così, scusi, c'è sempre una trasposizione inesatta del pensiero. Berlusconi ha detto, per me poteva anche essere, mi aveva detto che tale era e io avevo la legittima convinzione che potesse anche essere. Di fronte a questa probabilità mi sono comportato di conseguenza. Questo è stato il messaggio chiaro del presidente Berlusconi, è il messaggio chiaro che traspariva all'epoca dalle carte processuali, è il messaggio chiaro che il tempo ha acclarato. Quindi, come vede, la verità è emersa anche a distanza di molti. Questo per quel che riguarda il processo, poi si vedrà. Senta, dal punto di vista invece, per chiudere questo argomento, dell'immagine che ne esce di Silvio Berlusconi da queste telefonate, lei ha qualche convinzione, ha qualche convincimento? Io credo che l'immagine di qualsiasi cittadino italiano, se venisse colto all'interno della propria privacy, non sarebbe l'immagine che normalmente ciascuno di noi ha, nel senso che c'è sempre qualche parola detta in più, qualche atteggiamento manifestato in più. È chiaro che le intercettazioni rappresentano uno strumento straordinario di indagine, ma anche uno strumento molto importante di verifica. Però non sono molti italiani che possono convocare 20 o 15 o 10 ragazze bellissime a casa sua, a casa propria, a fare le feste. Ecco. Certo, mi pare che sia abbastanza chiaro che la rivista americana Forbes ha individuato in pochissime persone italiane e quelle che dal punto di vista economico possono reggere il confronto con i più grandi ricchi del mondo. Prendiamone atto, io non ho invidia per chi è più ricco e se è stato bravo a costruirsi le proprie risorse, e di uomini bravi in Italia ne abbiamo tanti. Quindi non esce un'immagine Ferrero, Del Vecchio e così via. Sì. Secondo lei non esce un'immagine anche politicamente, anche per il futuro politico, qualunque sarà, di Berlusconi, che può indebolirlo dal punto di vista... Guardi, il tempo ha acclarato che tutto ciò che veniva scritto al presidente Berlusconi, dalla parola spread in avanti, non sapevamo neanche che cosa fosse fino agli ultimi mesi di vita del governo Berlusconi. Sembrava che tutto dipendesse da lui. C'era chi diceva che bastava che si dimettesse che sarebbe calato di 200, di 300 punti. Sì. Abbiamo visto esattamente nel tempo che questo non si è verificato e il tempo costituisce medici, anche in questo caso medicina estrema nell'aver capito che la condizione economica non dipendeva affatto dalla guida del governo in capo al presidente Berlusconi, come oggi non dipende affatto dalla guida del presidente Monti. A proposito dell'attualità politica, ma lei la farebbe questa rivolta fiscale, la condivide questa rivolta fiscale che si profila? Con, per esempio, sono molti sindaci leghisti, per la verità, soprattutto, ma non solo, che chiedono la ribellione contro la riscossione dell'IMU. Io sono per il rispetto delle regole a qualsiasi livello, naturalmente sono anche per la contestazione nelle sedi opportune, nel dialogo nelle sedi opportune. Al governo Monti direi tutti i giorni che non si può procedere attraverso una tassazione così forte e che colpisca sempre di più le stesse persone, quelle che onestamente dichiarano, quelle che onestamente si danno da fare per essere assolutamente trasparenti e per non evadere. Questo lo dico tutti i giorni, ma poi una volta che sono stabilite le regole, io sono per il rispetto delle regole e credo che coloro che hanno incarichi istituzionali e incarichi pubblici non si possano permettere di incitare il cittadino alla rivolta e alla contestazione delle regole. Quindi rispetto delle regole, ma tra le regole c'era per esempio anche però quello che si chiedono molti gli italiani sul fatto che i tagli la politica non se li fa. Non è vero. Lei lo so. La politica se li è fatti e se li è fatti in maniera molto molto efficace, molto sì, ma onorevole Panis, la gente chiede di più. Per esempio la questione dei rimborsi ai partiti, adesso dire forse dimezziamo, ma già gli italiani li avevano cancellati, poi sono rientrati, tolti dalla finestra, sono entrati dalla porta o viceversa. Lei ha raccolto molte mie indicazioni del passato, non di quest'epoca. Io ho sempre detto che non dovrebbe esserci alcun finanziamento ai partiti, però so benissimo qual è l'obiezione. Se non ci fosse un finanziamento ai partiti, vincono la gran parte della gente direbbe ma sono soltanto i ricchi che possono fare politica, non è giusto, la devono poter fare tutti quanti. Quindi capisce che qualsiasi tipo di soluzione viene adottata evidentemente si presta delle critiche. Guarda, in questo momento storico in questo momento storico la gente, se facessimo un sondaggio, io credo il 98% degli italiani, forse perché anche non hanno soldi, vorrebbero cancellarli in toto in borsa ai partiti, magari sbagliando. Io sono d'accordo con questo 98%, ho detto sempre in moltissime interviste, ma non soltanto negli ultimi tempi quando il tema è tornato d'attualità, lo dicevo anche quando entravo in politica, si pensi lei. Solo che però in Parlamento non riuscite mai a far questo, forse adesso si riesce a tagliare la metà, ma sono tutte promesse, false promesse. No, non è così semplice, perché vede poi, come sempre, qualsiasi norma passa se ha il 50% più uno dei consensi. Se il 50% più uno dei consensi non c'è, una norma non passa. Evidentemente vuol dire che c'è gente che ritiene che sia molto più importante mantenere un finanziamento per poter consentire a tutti di fare politica, non solo alle persone che hanno disponibilità economiche. Quello che conta allora è la misura, che deve essere equilibrata, che deve essere corretta, e soprattutto quello che conta è che i soldi messi a disposizione vengano utilizzati nell'interesse delle istituzioni e dei partiti, non per fini personali, come emerso dalle vicende che hanno interessato il PD o la Lega recentemente, con la vicenda della Margherita e di Lusi o con la vicenda di Belsito e di Bossi. Questa è la realtà. Intanto lo sai che molti, vedendo la situazione, votano, voteranno forse Beppe Grillo. Lei che definizione, che definizione mi dà di Beppe Grillo? Io credo che prima di tutto ai cittadini bisogna dire che votare è esprimere il massimo del convincimento personale per quanto riguarda la vita delle istituzioni di un paese. No all'astensionismo, lei dice. Spingo in tutti i modi a votare. E poi se uno ritiene che Grillo esprima, oltre alla contestazione, anche delle proposte significative, allora è legittimo che ciascuno valuti se votarlo o non votarlo. Io credo che sia facilissimo fare la contestazione, la critica, sia molto più difficile fare le proposte. Ma una sua definizione di Grillo, cioè, secondo lei, da questo punto di vista sia molto carente. Grillo che cos'è in questo momento? È politica, è antipolitica, è un comico? Grillo è un comico che naturalmente utilizza uno dei fenomeni di massa che è la politica per gestire la sua realtà comica. Ah, quindi rimane un comico comunque. Mi pare che nessuno lo possa indicare nei comizi, sì, però la leader di un partito. Questo sì, però c'ha una base politica secondo lei, almeno nelle persone che lo seguono, c'è una piattaforma, c'è un programma. Guardi, la mia logica è quella del rispetto nei confronti di tutti, quindi rispetto anche Grillo, rispetto i grillini, rispetto coloro che credono in questo messaggio, ma come le ho già detto, la fase della contestazione è facilissima. La fase della proposta è molto difficile. Da parte di Grillo, al di là del tutti a casa, non sento delle proposte significative per come vorrebbe o potrebbe gestire la vita di un paese, quindi credo che i limiti limiti siano molto evidenti dal punto di vista delle proposte di vita di una nazione. Per quanto riguarda invece la critica è facilissima, lui è un comico, lo sa fare benissimo. Va bene, io intanto onorevole Panitz la ringrazio. Complimenti per lo scudetto, lei è un grandissimo tifoso della Juve, non si tocchi, non si tocchi, complimenti. Vendiamo la pelle dell'orso appena l'abbiamo conquistata, ancora non l'abbiamo conquistata, sì, però siamo sulla strada buona, sì, diciamo che l'abbiamo già visto, sta storia. È in fondo all'orizzonte. Sì, in fondo, chiaramente già toccato con mano, comunque lei fa bene a essere superstizioso. Grazie, complimenti, e grazie. Ci sentiamo presto, l'onorevole Maurizio Panitz del Popolo della Libertà. Noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo. Poi, guardate che perfino, visto che si parla di spending review, di tagli, o supercazzola, come la definisco io, ma la Banca Centrale Europea anche ci ha guardato in Italia e ha detto: ma non è che magari accorpate un po' di province? Così, giusto per... potrebbe essere una soluzione abbastanza semplice. Ma cari italiani, da quanti anni la sentiamo questa storia? Pensate che domenica i sardi, i cittadini sardi, andranno a votare anche un referendum nel quale si chiede di voler cancellare almeno le quattro province nate qualche anno fa. E c'è chi resiste. Almeno dalle province vogliamo iniziare il vecchio tormentone, ma adesso anche la Banca Centrale, la Francoforte ci ha guardato e dite: guardate, se sono lì a disposizione, accorpate le province. E già una bella spending review l'avete fatta. Ma che? Si riuscirà? Non si riuscirà? Chi lo sa? 800 24 00 24, tra poco. Sono le 8:36 minuti, allora anche la Banca Centrale Europea, guardandoci dall'Europa, da Francoforte, guarda con attenzione questi tagli alla spesa pubblica annunciati, e ha detto dalla Banca Centrale Europea, dicono: guardate, forse l'unica vera misura per tagliare subito i costi della politica potrebbe essere questa, accorpate le province italiane, quindi tagliate, dimezzatele, fate qualcosa. Allo studio del governo, secondo il Messaggero, c'è la riduzione dalle 107 province attuali a 50 macro aree, insomma l'accorpamento delle province. Sta di fatto che qualche giorno fa Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera iniziava così un suo articolo dedicato a un referendum, a una serie di referendum che ci saranno settimana prossima, a cui verrà chiamata la regione Sardegna a votare. Tra questi referendum c'è anche l'ipotesi di cancellare almeno quattro delle otto attuali province in Sardegna, in regione. Riuscirà il fortino di Lanusei a resistere all'assedio, scriveva Gian Antonio Stella, a pochi giorni dal referendum in Sardegna sull'abolizione delle quattro province supplementari inventate 7 anni fa per bulimia castale, il paese di 5.655 anime eretto a capoluogo dell'Ogliastra è diventato il Fort Alamo della resistenza ai tagli della politica. Tagliare le province, accorpare le province, domenica in Sardegna si voterà anche su questo. Voglio salutare il presidente della provincia di Nuoro, del Partito Democratico, e presidente anche dell'Unione delle Province Sarde, Roberto De Riu. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Tra l'altro, giusto per far capire, lei è contrario all'abrogazione di queste province, cioè vuole mantenere la situazione attuale, giusto perché così inquadriamo subito sbagliato. La sua situazione. È sbagliato, va bene, adesso certo. Ce lo spiega. Mi faccia salutare anche Silvio Boccalatte, che è dell'Istituto Bruno Leoni, che già nel 2007, buongiorno Boccalatte, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Già nel 2007 scriveva il libro L'abolizione delle province, questo a dire che il tema è un po', insomma, è da tempo che ce lo portiamo appresso questa idea, questo tormentone sulle province. Allora, Presidente De Riu, perché è sbagliata la posizione? Lei vuole mantenere queste province? Quante ce ne devono essere in Sardegna? Ma io vorrei partecipare al dibattito che c'è nella Repubblica Italiana su come salvare la Repubblica Italiana dal default, questo è il tema per me. In più vorrei salvare la Repubblica Italiana dal default democratico, nel senso che si vorrebbe capire come ci governeremo quando avremo magari risolto i problemi attuali di bilancio, ma a me sembra questo il tema più che prendersela con uno o con l'altro livello di governo. Queste misure che si annunciano costruite in una notte, o questi referendum che nascono per porre il problema però poi hanno degli effetti reali e incidenti su un pezzi dell'apparato pubblico, a me non sembrano delle soluzioni, nel momento in cui invece dobbiamo risolvere dei problemi giganteschi, quindi dobbiamo farlo con molta attenzione, certo con velocità ma incidendo. Sì. realmente sui problemi. Per cui io sono per una discussione, se la vogliamo fare, sui numeri, sui dati, sulla realtà e attraverso anche i principi e la legalità, prima di tutto la legalità costituzionale. Per questo motivo noi abbiamo presentato dei ricorsi contro l'indizione di questi referendum, sì, in Sardegna, perché ci sono profili di illegittimità che secondo noi sono molto evidenti. So che uno è stato perso. Il discorso nostro non è contro le province, sì, o contro l'abolizione o contro altri livelli di governo. Noi vorremmo una discussione per risolvere dei problemi, altrimenti diventa tutto un feticcio. Questo sì, però Presidente, glielo devo chiedere, se queste quattro, sì, province fossero davvero necessarie, quelle nuove, diciamo, quelle non quelle storiche, Nuoro, Cagliari, Oristano e Sassari. Ma prima di tutto dobbiamo capire come dobbiamo articolare la Repubblica, quali sono i livelli di governo necessari. Questa è la prima domanda da fare, dopodiché dobbiamo dire come li vogliamo questi livelli di governo, secondo quale principio. Secondo me dovremmo ispirarci all'ottimalità. A proposito l'ottimalità di livelli, forse sono troppi in Italia questi livelli. Troppi rispetto a cosa? Devono essere ottimali, cioè devono essere proporzionati ai servizi che devono distribuire. Questo sì, però facciamo un discorso estetico che ci porta molto lontano da un'efficienza economica. Ma guardi, intanto lo possiamo paragonare agli altri paesi, magari adesso Boccalatte ci aiuta, però tanti livelli potrebbe... Vi aiuto anch'io perché non sono dati segreti. Troppi livelli, Presidente De Rio, vuol dire anche troppe poltrone, per esempio? Troppi vuol dire una cosa sbagliata, e troppo pochi è altrettanto sbagliato. Ci vuole l'ottimalità. Noi dobbiamo tendere a quello che serve, non a quello che ci sembra più o meno spannometricamente adeguato. Potrebbero essere anche tanti livelli, importanti che funzionino, però ripeto, questo vuol dire anche se noi abbiamo come scopo far funzionare la Repubblica, se noi abbiamo come scopo invece fare un imbellettamento istituzionale per dire che stiamo facendo qualcosa, allora quella lì si chiama muina, mi sembra tra le peggiori tradizioni italiane. Lei dice cancelliamo delle province così siamo tutti felici e contenti. Per dare l'impasto alle banche, ma non mi sembra una gran soluzione. Insomma, sentiamo, Silvio Boccalatte, l'approccio del Presidente De Rio le piace, cioè l'idea di dire qua stiamo facendo un feticcio, quello del cancellare qualche provincia, ci imbellettiamo, siamo tutti contenti, ma poi i problemi veri restano. Io apprezzo il taglio del Presidente De Rio, perché tutti vogliamo salvare la Repubblica, nel senso, qui mi sembra che stiamo morendo di spesa pubblica eccessiva. Certo non salviamo la Repubblica con la logica del benaltrismo, sono bene altri problemi e non iniziamo dalle province. Certo è che la situazione delle province è una delle situazioni peggiori. Cioè, le province sono evidentemente degli enti che sono in più anche rispetto ad assetti ottimali. Noi partiamo anche dal presupposto che abbiamo bisogno di assetti ottimali. Però voglio dire, a me era stato eccepito ai tempi, le province sono un patrimonio di democrazia. Ma di che cosa stiamo parlando? Qui noi abbiamo i comuni, le province, le regioni, lo Stato, l'Unione Europea, poi ci aggiungiamo anche i municipi, ci aggiungiamo anche dove sono rimaste le comunità montane. Voglio dire, qui abbiamo la rappresentanza su tutto e su qualsiasi cosa. Non mi sembra che aumentare così tanto gli organi rappresentativi difenda la Repubblica. No, però De Rio dice il problema non è tanto il quantum e quante sono, ma l'efficienza dei livelli. Certamente, infatti io volevo anche aggiungere un altro punto su cui sicuramente il Presidente De Rio ha ragione. Gli interventi fatti dalla sera alla mattina non sono corretti. Gli interventi dettati dalla fretta non sono corretti e bisogna anche essere onesti. Il problema non è il problema di sopprimere una, due, tre province e accorparle e farle diventare 50, perché poi l'obiezione è semplice: se noi facciamo 50 macro province, e cosa abbiamo replicato le regioni? Cioè il problema non è accorpare le province. O uno le toglie o le tiene, ecco. Ma certo, ma è evidente, e devo anche essere onesto su un punto, cioè l'intervento che ha fatto il governo è un intervento molto opinabile, perché è un intervento in cui non si capisce quali funzioni restino alle province e quali invece vadano poi trasferite ai comuni e alle regioni. Ciò non di meno, vorrei entrare un momentino sul fatto sardo, perché è necessario. Voglio dire, partendo nel 2005 ci sono state formate queste quattro nuove province. Noi abbiamo preso, noi come Istituto Bruno Leoni, abbiamo analizzato tra il 2007 e il 2008 il caso emblematico della provincia di Carbonia Iglesias, che è formata da 23 comuni ed è proprio una parte del territorio della provincia di Cagliari. Ecco, se io mi immagino, voglio dire, la provincia di Cagliari, se perde un pezzo del proprio territorio diminuirà le spese, mi immagino. E invece no, se noi prendiamo i bilanci, io li ho qui davanti, tra 2005 e 2007, notiamo che le spese della provincia di Cagliari sono aumentate del 28%, per quanto riguarda le spese correnti del 50%, cioè è evidente che la creazione di queste nuove province non abbia porta, portato... quindi non porta a una riduzione delle province che si sono perse un pezzo del territorio, questo. Beh, no, interessante. Assolutamente, però adesso il problema è concreto, nel senso che se adesso noi le aboliamo queste province, non è che immediatamente abbiamo i risparmi e torniamo alla situazione di prima. No, è chiaro, è chiaro. Diceva uno studioso tanto tempo fa, quando hai trasformato un acquario in una frittura di pesce, poi è difficile ritrasformare una frittura di pesce in un sì. acquario. Il percorso inverso è un po' più difficile. Allora, eccoci qua. Presidente De Rio, due obiezioni le vengono poste. La prima è appunto il fatto che, per esempio, bilanci alla mano, Silvio Boccalatte ci dice che la crescita della spesa della provincia di Cagliari, che si è privata qualche anno fa di una serie di 28 comuni, è del più 28%. E poi, scusi, c'è anche la BCE che dice, non sarà un imbellettamento, però dice la BCE, accorpate le province. Questa è una cosa che si può fare subito per ridurre la spesa pubblica. De Rio. Rispondiamo subito. Tra il 2005 e il 2007 è avvenuto in Sardegna un fatto di certo rilievo, cioè con la legge regionale 9 del 2006 si sono trasferite delle funzioni dalla regione alle province, per cui gli aumenti del volume, diciamo, trattato di denaro trattato dalle province è dovuto al trasferimento della regione. Questo trasferimento che non c'era, che quindi rende incomparabili le vecchie province con le nuove province, perché le nuove province hanno altre competenze rispetto alle nuove, hanno incorporato nuovo personale, questo spiega l'aumento della spesa corrente, hanno nuove funzioni che hanno visto come lavoro, come turismo, come ambiente, come, ecco, sull'ambiente per esempio tutto il personale che fa la disinfestazione degli insetti è passato da essere personale regionale a personale provinciale, o comunque dentro il bilancio provinciale. Ma perché non poteva fare il proprio lavoro stando in regione? Prego? Poteva fare poteva continuare a fare il proprio lavoro stando alle dipendenze della regione. Mi dà il destro per dire quello che stavo per dire, e cioè che quando è stato questo trasferimento effettuato si è avuto un risparmio da quello che spendeva la regione di 32 milioni e mezzo di euro, e con lo svolgimento invece di altre funzioni anche dallo Stato si è avuto un ulteriore risparmio di 47 milioni e mezzo di euro. Ma Presidente, va acquisito, perché mentre noi abbiamo una limitata capacità di verificarli questi dati, ecco, noi invece però, Presidente, diciamo, il raffronto meccanico tra i due bilanci sembra consegnarci una chiara condanna. No, mi faccia dire questo, però l'aspetto dalla regione alle province c'è stato un risparmio di 80 quindi milioni, quindi dice di euro. È da lì dal bilancio delle regioni che bisogna vedere, però il poltronificio, che è una delle cose sulle quali gli italiani si arrabbiano di più, cioè vuol dire creare un nuovo presidente, un consiglio provinciale. In Sardegna il costo pro capite dell'apparato provinciale, 8 presidenti, 58 assessori, 204 consiglieri, no? Questa macchina di poltrone, costa pro capite 3,89 euro. Un presidente della regione, 12 assessori, 80 consiglieri regionali costano 62,30 sì, però euro pro capite. Io capisco lei dove vuole arrivare. Lei dice guardiamo le spese della regione. Io non voglio arrivare, voglio partire. Certo, però lei dice guardiamo da un dato. Sì, ma il quindi cittadino. Se parliamo di spesa pubblica e di riduzione della spesa pubblica, dobbiamo vedere dov'è. Va bene, perché però è si metta ora. È inutile dire che noi tagliamo le province, come dice perfetto. La BCE, risolviamo la crisi. Però, Presidente, si metta nei panni del cittadino. Tarde, si metta nei panni del cittadino. Sapere, bisogna dire. Ho capito, ma il cittadino vede che lei dice che la regione spende, spreca di più, e la regione dice che sprecate di più le province. È dimostrato. Quando lo faceva la regione costava 70 milioni in più di quando le stesse cose che fanno le province. Perfetto. Ci sarà da riflettere su questo. Sì, credo, no? Sicuramente sì. Sentiamo, ci ha chiamato all'800240024 Luciano da Carbonia, dalla provincia di Carbonia Inglese. Da dove ci chiama Luciano? Buongiorno. Dalla provincia più povera d'Italia, buongiorno. Neonata o da poco nata provincia di Carbonia Inglese. Ma da che città ci chiama? Da che città? Da Carbonia, esattamente. Carbonia. Lei che ne pensa di questa cosa delle province? Vanno tolte, vanno mantenute? No, io dico che vanno abolite le regioni, che sprecano di le più. Regioni, le province stanno più vicine ai cittadini, tant'è vero che noi prima di avere la provincia qui, proprio di provincia non ne sentivamo neppure l'odore, se non quando avevamo la fortuna di avere un assessore. E allora vedevamo qualche strada, qualche contributo. Cioè, perché questo, Luciano, lei lo vede come il rapporto della politica. Siccome c'era un assessore di Carbonia, portava avanti le istanze di Carbonia. No, vedo che quando non c'era nessuno ci pensava. Vedo il contrario, io, guardi. Non è che vogliamo essere così privilegiati. Però mi scusi, Luciano, sì, le chiedo questo. Lei dice c'è una vicinanza più prossima ai cittadini, no? Quando c'è la provincia si portano avanti più... Ma c'è il comune, si rivolga al suo sindaco, si rivolga... C'è il comune, però le do un esempio, per esempio le scuole, qui le scuole superiori, quando eravamo dipendenti dalla provincia di Cagliari, non iniziavano mai prima di, settembre, ottobre, novembre, a dicembre forse iniziavano le scuole perché non funzionavano mai i riscaldamenti, quindi questo è un solo dato. E poi la BCE che ci dice di risparmiare annullando le province. Voglio dire, intanto i conti sono questi, che tutto il personale assunto non verrebbe licenziato, quindi passerebbe addirittura alle regioni e avrebbero anche un aumento di stipendio, quindi i costi salirebbero. Allora io faccio un'altra proposta, mandiamo a casa tutti gli assessori e i consiglieri provinciali. E chi la fa la provincia? I sindaci. Mettiamo il presidente e i sindaci fanno i consiglieri e gli assessori. Ah vabbè, ma guardi che è un qualcosa che Monti in qualche modo stava studiando. No, Boccalatte, intanto due questioni. Luciano che ci dice la politica adesso, da quando c'è la provincia di Carbonia Iglesias, finalmente i cittadini possono avere uno sportello, una voce che raccoglie le loro lamentele. È come se appunto il comune non bastasse. E poi l'aspetto di rivedere questa istituzione della provincia in altro modo. Allora, alcuni punti che vanno assolutamente identificati con precisione. Astraiamoci un secondo dalla casistica sarda. Le spese complessive delle province tra il 2000 e il 2005, complessive, si tratta di un aumento complessivo di circa di più del 60%, specificamente sono aumentate le spese per il rimborso dei prestiti, cioè l'indice che dimostra quanto un ente complessivamente si è indebitato, del 221%. Detto ciò, io poi vorrei essere preciso su una cosa. Qui in Italia si continua a parlare di si deve iniziare da un'altra parte, ma le spese, il budget complessivo delle province non è enorme, questo bisogna essere onesti, cioè le province tutte insieme manipolano circa 16 miliardi di euro. Bene, i costi politici delle province sono circa 115 milioni di euro, 115-116 milioni di euro. Poca roba rispetto... Cioè lo 0,7, verissimo che è poca roba, ed è altrettanto vero che abolendo i costi politici non si ottiene un grande miglioramento. Però lo 0,7% del budget completo, bene, io vorrei vedere quanto sono la percentuale del costo politico delle regioni e dello Stato, cioè del Parlamento, nei confronti del budget complessivo delle regioni e dello Stato, e ci renderemmo conto che in realtà il costo politico delle province in percentuale sul budget è molto più elevato rispetto al costo politico delle regioni e dello Stato. Prima questione. Altra questione, le funzioni, perché qui continuiamo sempre a girare su questo tema delle funzioni, che sono un paradosso incredibile che contraddistingue il nostro paese. Allora, nel 1948 noi abbiamo ereditato il sistema delle province. Caspita, avevamo un ente pubblico, abbiamo dovuto cercare a tutti i costi qualche cosa da fargli fare. Siamo arrivati al paradosso per cui abbiamo l'ente e gli dobbiamo trovare qualcosa da fare. Non è che al contrario, come sarebbe fisiologico, verifichiamo se c'è un'esigenza e vediamo se serve un ente. Se serve l'ente. Morale della favola, si arriva al paradosso, perché questo bisogna poi dirlo, si arriva al paradosso che l'edilizia scolastica, non so, l'edilizia scolastica elementare è stata attribuita ai comuni, la gestione dell'edilizia scolastica comunale. La gestione dell'edilizia scolastica, diciamo, delle scuole superiori è stata attribuita alle province, cioè tutte le funzioni delle province sono state ricavate attraverso un'opera di cesellamento veramente difficile, veramente curiosa e bizzarra, strappando un po' di competenze dalle regioni e un po' di competenze dai comuni. Vabbè, intanto vedremo come va a finire anche l'appello della Banca Centrale Europea, se questa è la strada. Io qui mi devo fermare, ma è un tema sul quale torneremo, anche perché di spesa, di tagli alla spesa pubblica, certo, torneremo a parlare nei prossimi giorni. Ringrazio Roberto De Riu, presidente della provincia di Nuoro, nonché dell'Unione delle Province Sarde, e Silvio Boccalatte dell'Istituto Bruno Leoni, per essere stati con noi. Ci trovate anche su Twitter, @talinomilan, eccomi lì, sono io. @24mattino è invece la trasmissione. Ti ringrazio tutti, un po' Diego Rovelli, che è interista e contento. Carmelo è contento. Interista e contento è un po' un ossimoro. Comunque, Carmelo Lauricella in regia, e ci troviamo domani.